Ciao Alice, ciao Marica, buonasera. Ciao, ciao Radio Risacca. Benvenute e benvenuti al nostro ottavo appuntamento. Wow! Olè. Oggi vi parleremo di due fantastiche piante giunte al loro tempo balsamico. Quali tra loro? L'alloro e l'elicriso. Olè. Vai Ali, parlaci dell'elicriso. Inizio io. Sì, allora, comincia tu. Parleremo oggi dell'elicriso italico, una delle mie piante preferite. Dici tutto. Allora, fa parte della famiglia delle asteracee. Ok. Il suo nome latino è Elicrisum italicum. Ok. Dal greco helios, cioè sole, e chrysos, oro. Wow. Per via del colore dei capolini. Dorati. Dorati. Italicum ovviamente vuol dire dall'Italia. Quindi pianta originaria del nostro paese. Del nostro paese. Allora, l'elicriso cresce in tutta Europa, soprattutto l'Europa meridionale. Ok. E ha una forte importanza terapeutica, soprattutto perché rispetto a molte altre piante che fanno parte della nostra tradizione. Sì. Le sue proprietà medicamentose, che sono state già intuite nella medicina greco-romana e nella medicina medievale, esatto, sono state tutte confermate dalle più recenti indagini farmacologiche. E quali tra queste? Quali sono le sue proprietà più conosciute? La proprietà più forte dell'elicriso ha come tropismo le malattie dell'apparato respiratorio. Ok, quali? Quindi le bronchiti. Esatto. Anche quelle croniche, okay. Le bronchiti asmatiche, i raffreddori di qualsiasi tipo, sempre acuti e cronici. Ok. E di qualsiasi origine, sempre asmatici o virali, batterici, eccetera, eccetera. Ok. Ha una buona azione soprattutto in presenza di un muco molto denso, anche detto purulento, per la presenza del pus. Pus! Perché facilita l'espettorazione. Quindi lo spurgo, mi potete spurgare bene con questa pianta. Allora, come abbiamo già accennato poi da quanto detto parlando dell'apparato respiratorio, l'elicriso è molto utile in caso di tutte le malattie allergiche. Ok, quindi, quali? L'asma allergico, le allergie alimentari e tutte le manifestazioni di questo genere. Ma non solo però, ha anche azioni curative in caso di... Anche quando si parla di malattie dell'apparato digerente. Ok. Come gastriti, coliti, sempre coliti di ogni genere. Ok. Quindi allergiche e non, con qualsiasi altra causa. Perfetto. Ha una buona azione anche sulle malattie del fegato e delle vie biliari. Quindi è uno spurgante a tutti gli effetti, lo possiamo dire? Sì. E non solo. Per quanto riguarda il fegato e le vie biliari ha un'azione molto forte. Ok. Simile a quella in caso dei bronchiti croniche. Ok. E quindi va presa sotto prescrizione medica. Quindi attenzione, sentite sempre ovviamente il parere del vostro ovviamente medico. Ovviamente se avete una bronchite cronica spero che siano andati dal medico a farvelo dire. Ok. Allora. E oltre alle bronchite e alle gastriti abbiamo scoperto che anche a livello cutaneo è una pianta particolarmente forte, sì, giusto? È una pianta che esprime le sue potenzialità anche tramite un semplice decotto, okay, o delle pomate, quindi a livello topico. Okay. Si usa in caso di qualsiasi tipo di dermopatia. Ok, quale? Ittiosi, eczemi, dermatiti, fino alle cose, dalle cose più semplici, tipo le ustioni e i geloni, okay, alle cose più gravi, anche quindi in caso di psoriasi. Va bene, vogliamo ricordare come fare un decotto con l'elicriso? Allora, si mette la pianta insieme all'acqua. Ok. Direttamente sul fornello. Ok. Facciamo circa una tazza e due cucchiai di pianta. Sì, le parti utilizzate è la pianta fiorita. Ok, quindi i suoi bellissimi fiorellini gialli e gli steli. Tranne la radice, essendo un piccolo arbusto, se togliamo la radice andiamo a danneggiare tutta la pianta. Esatto, quindi fate attenzione quando la raccogliete, perché appunto essendo un piccolo arbusto fate attenzione a non raccogliere la radice, in modo che poi la pianta si può rigenerare e può ricrescere l'anno più seguente. Più facilmente, senza troppi sforzi. Esatto. Tempo esagerato. Esatto. Allora, per via diretta vi posso dire che la pomata dell'eligriso ha una forte azione analgesica, cioè con scomparsa del dolore, del bruciore, del prurito e tutte queste cose che riguardano la cute. Ok, quindi per è molto potente. È una pianta potentissima, sì. E se avete questo tipo di problemi la consigliamo. Per queste proprietà qua analgesiche, sì, si stanno portando avanti molti studi riguardo al suo comportamento cortisono simile. Ok. Cioè ha una potenza e valenza simile al cortisone, del quale ci bombardano sempre se abbiamo problematiche a livello cutaneo. Okay. Quindi lo consiglio a tutti. L'eligriso ha mille proprietà, per finire. È una pianta magica perché si può usare in qualsiasi tipo di davvero di problematica. Quindi il suo decotto io lo uso come un fortissimo preventivo, perché agisce in caso di cefalee, emicranie, sempre parlando di tutte le malattie dell'apparato digerente, come malattie oculari, quando si parla di occhi, bocca, tutto quello eccetera, che riguarda eccetera, eccetera. Le nostre mucose, quindi il sangue, depura il sangue, è un anticoagulante, vabbè, chi più ne ha più ne metta. Quindi è sempre buono avere un po' di eligriso dentro la nostra dispensa, giusto? Sì, sempre ottimo. Sempre ottimo. Consigliamo super questa pianta, come tutte le piante di cui parliamo. Questa è un'altra delle piante molto forti. Sì, ci tengo anche a dire in questa puntata, sì, vai Alice, che io e Marika vogliamo fare questa rubrica per invogliare la gente all'uso delle erbe come prevenzione, nel senso che prendendoci cura di noi stessi possiamo assumere durante la giornata delle cose che venivano sempre assunte dai nostri antenati nelle nostre tradizioni per prevenire qualsiasi tipo di malattia, perché noi ormai ci andiamo a curare, a prenderci cura di noi stessi sempre quando è troppo tardi. Esatto. Quindi fatevi dei cotti, fateli raffreddare, beveteli come un tè, usate le piante, evviva! Evviva! Evviva! Evviva le piante! Sì, purtroppo negli anni comunque si è persa un po' questa tradizione di prevenire, come si diceva sempre, il solito detto, prevenire è meglio che curare. Bravo Marika. grazie. Certo. E adesso? Che cosa ci hai portato tu? E io invece vi ho portato l'alloro. Alloro? Alloro. Alloro a chi? A te, a me. No. L'alloro, il nostro famosissimo alloro che usiamo in cucina. Ma è risata all'oro. All'oro. Comunemente usato in cucina. Però ha anche questo arbusto tante proprietà. Della famiglia delle lauracee. Appunto, questo piccolo arbusto sempreverde che può anche raggiungere i 6 metri d'altezza. È usato sin dagli antichi greci romani, e quindi chi più di loro possa avere quante proprietà può avere. Le foglie hanno, come tutti sappiamo, hanno questo caratteristico odore aromatico e quindi usato in tanti piatti culinari, e si raccolgono soprattutto in questo periodo, come abbiamo detto già all'inizio. Queste due piante sono nel loro tempo balsamico. Che vuol dire il tempo balsamico? Spiegacelo. Il momento in cui raggiunge le proprietà più forti. Il massimo. Quindi approfittatene, raccoglietene il più che potete. ok? E consideriamo, a parte, vabbè, come abbiamo detto, che è una pianta culinaria dalle caratteristiche aromatiche. Marica ci fa venire sempre fame a ogni puntata. Io ho fame, grazie Maria. Ma ricordiamo anche che i suoi oli essenziali naturali sono ingredienti importantissimi non solo nella cucina ma anche per preparazioni mediche, con proprietà aperitive, digestive, antisettiche, antispasmotiche, stimolanti, espettoranti, diuretiche, antispasmodiche, cioè capaci di rilassare i tessuti muscolari contratti, ok? Si possono usare le sue foglie sia in infusioni, dalle proprietà purificanti del tubo digerente e in più favoriscono le eliminazioni dei gas intestinali. E ci risiamo con le scureggette. Chi scureggetta sempre dopo il pasto? Consigliamo un'infusione di alloro purificante. Subito dopo, perché spesso si aspetta. Invece, esatto, per eliminare i gas intestinali va assunto mentre inizia la digestione. I 20 minuti, mezz'ora dopo che si è mangiato, se tu bevi subito dopo questa infusione, sei sicuro che le scureggette non le fai. Un ottimo digestivo quella quindi. Sera salvi tua moglie, la tua compagna, il tuo compagno, quello che sia, il tuo cane anche. E in più, ragazze, questa soprattutto è un'informazione per le donne che ci ascoltano, ha proprietà emenagoghe, cioè capaci di stimolare la comparsa del ciclo mestruale. Quindi questa è una pianta rivolta a quelle donne che hanno problemi di mestruazioni, di ritardi, giusto? Eccetera, eccetera, eccetera. E anche... Se non vi viene il ciclo, siete preoccupate, fatevi l'infuso da loro. Esattamente. Se non vi viene il ciclo, fate un'altra. Preoccupatevi. Ed è anche soprattutto un ottimo rimedio appunto per le mestruazioni dolorose, ma non quelle mestruazioni accompagnate da un ciclo abbondante, ok? Perché sennò rischiate di andare in emorragia, ok? Quindi attenzione ragazze, mi raccomando. E adesso Marika, che cosa ci proponi come ricettina della settimana? Visto che parliamo sempre di mangiare, oggi invece, visto che abbiamo l'alloro sotto mano, oggi adesso faremo il liquorino all'alloro. Quindi se beve. Se beve forte. Sì, allora, semplice e mortale soprattutto. E mi raccomando, carta e penna. Lo leggeremo con calma, così vi diamo il tempo di segnarvelo. Giusto? Con la mia moviola. Moviola. Allora, ingredienti: 100 foglie di alloro, contatele, mi raccomando. Poi un litro di alcol a 95 gradi, un litro d'acqua e 400 grammi di zucchero. Ok? Preparazione: mettete a macerare le foglie di alloro in un litro di alcol a 95 gradi per 30 giorni. Poi, passati i 30 giorni, filtrate e a parte fate sciogliere lo zucchero, i 400 grammi di zucchero, in un litro d'acqua. Fate raffreddare tutto quanto e poi aggiungete il macerato allo sciroppo e lasciatelo in riposo per 15 giorni. E dopodiché, ragazze e ragazzi, il vostro liquorino è pronto. Olè. Olè. Cioè, 2 litri di liquore per imbriagarvi. Esatto, andateci piano perché questo liquore fa 42 gradi. Ok? Quindi andateci piano. E soprattutto è un ottimo digestivo, come dicevamo prima. Lo potete assumere dopo mangiato tranquillamente, okay? Per le scureggioni e per gli amici delle scureggioni. Esattamente, e per chi ha problemi di digestione. E adesso vi lasceremo anche un'altra ricettina cosmetica. Olè! Olè! Preparate anche qui carta e penna. Vi lasceremo una ricetta chiamata maschera alla maionese. Vai Alice, dici come si fa. Allora, come ingredienti abbiamo bisogno di 2 cucchiai di oleolito di curcuma, che abbiamo fatto alla seconda puntata. E olè. E olè. Un cucchiaino di succo di limone. Olè, ce l'abbiamo. E un tuorlo d'uovo. Perfetto, vai. Come preparazione dobbiamo mettere il tuorlo e il succo di limone in una scodella e sbattiamo tutto quanto, mescoliamo l'uovo. Ok, mo' di maionese proprio. Sì, perché l'olio si aggiunge versandolo a filo, quindi goccia a goccia, mentre continuiamo a mescolare. Esatto. Sempre nello stesso senso. Ok. Come una maionese. Come una maionese, para para. Finché tutto non sia completamente assorbito. Ok. Dopo lo prendiamo e lo applichiamo sulla faccia. Essendo una maschera molto liquida, io solitamente quando uso l'uovo nelle maschere per il viso, cosa fai? Prendo un rotolo di carta igienica. Ok. E taglio dei pezzettini. Ok. Cioè i pezzettini li faccio piccoli piccoli in modo che riesco a mettermeli in faccia. Quindi metto uno strato di maschera, uno strato di carta e sopra l'uovo, perché okay, con l'aria si va a seccare. Mm-hmm. Quindi in quel tempo di applicazione, che sono un quarto d'ora, 20 minuti, e poi leviamo il tutto. Ok, tranquillamente. Sì, questo per fare in modo che non ti gocciola tutto dalla faccia. Perfetto. E quante volte possiamo usare questa maschera? Anche 2 volte alla settimana. Ah, oh, perché è una maschera che si addice con il periodo estivo. Perché? Sì. Perché è molto... ed è molto idratante e, ragazze mie, antirughe per eccellenza, ed è adatta a tutti i tipi di pelle, anche quelle più secche e più stanche. Ok, quindi se avete bisogno di una rivitalizzata, questa è la maschera che fa per voi. Yes. Donnine. Quindi è pure molto semplice, costo zero come tutte le nostre ricettine, e quindi Fatevi belle, che è arrivata l'estate, abbiamo bisogno di scoprirci, di prendere il sole. E olè! Usiamo. E niente, e adesso ci salutiamo. Ciao ragazzi. Ciao Alice. Ci vediamo alla prossima. Ciao Radio Risacca. Ciao Marika. Ciao, un bacione.